best rock and roll station in the world. It's Rock FM. Pronti a risolvere i vostri dubbi? Avete fatto la vostra scelta? Avete deciso qual è il vero soprannome di Bruce Dickinson? Avete preso appunti? Vi siete segnate le cose sul vostro blog notes? Andiamo a svelare. La prima ipotesi ipotizzava che Dickinson si fa chiamare Oscar Raffone per le sue origini napoletane. È vero? Assolutamente no. No, no, direi che era proprio completamente sbagliato. Campata per aria. Come campata per aria, mi sembra di intuire, è anche la B, The Boss. E dice bene, già c'è un altro boss. Esatto. Il boss è uno solo. E allora è ufficiale, Bruce Dickinson si fa chiamare Raid Air Siren, sirena d'allarme aereo. E sa che la nostra redazione ha scoperto anche perché. Me lo dica, perché si faceva chiamare Raid Air Siren? Si dice che questo soprannome gli venne affibbiato all'età di 18 anni quando cantò durante una performance al college e incrinò, sentite qua che leggenda, una sfera di vetro che faceva da lampadario grazie solo e unicamente ad un acuto alquanto incisivo, simile per l'appunto a una sirena aerea. Questa però sembra essere solo una leggenda, perché è tecnicamente molto difficile che un soprano come Bruce Dickinson riesca a incrinare con la propria voce anche solo cristalli di bicchieri molto sottili, ma a noi piace credere che invece era così. Viva Bruce Dickinson, viva la sirena d'allarme aereo! Me la faccia anche lei, freak! Scusi, si fermi, è per questo che la chiamano freak e non sirena antiaerea. DJ Ariele, io la ucciderò. Ma non se ne accorgerà, sa? Non se ne accorgerà. Shatters the steel. His eyes are ablaze. See the man. volo di Icaro e si chiude con questo super acuto di Bruce Dickinson, gli Iron Maiden, per celebrare il test attitudinale di quest'oggi. Buona giornata dall'Ariele, questa è Rock FM, la colazione servita al mattino che si chiama pane, burro e rock and roll. Siete i benvenuti ancora per la prossima mezz'oretta scarsa al 335 100 77 77. Sappiatelo, qui si roccheggia duro fin dalle prime luci dell'alba per servirvi la miglior colazione in circolazione. Tra pochi istanti la nuova rubrica Un Nobel a Fricantoni. Restate lì, ci sono i Kiss, Detroit Rock City. Nel corso della storia dei premi Nobel, molti italiani hanno vinto questo premio. José Cardull, Ernesto Teodosio Monella, Guglielmo Marconi, Grazia Delenda, Gigi Pirandecco, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montante, Renato Dulbecci, Dario Bo. Ma dopo la candidatura di Roberto Benigni, pane, burro e rock and roll non ci sta. E propone il proprio candidato, Roberto Freak Antoni, l'uomo che ha inventato il rock demenziale. Merita il giusto riconoscimento. Milano, via Locatelli 1, studi di Rock FM. La redazione di Pane, Burro e Rock and Roll è al lavoro. Amici della redazione, qua bisogna candidare me stesso. È un'ottima idea, Frick, è un'ottima idea. Ragazzi, tutti pronti? Scusa, dopo l'Oscar consegnato a Dario Fo, certo, dopo questa richiesta per Roberto Benigni per aver diffuso il lavoro su Dante Alighieri, sono d'accordissimo. Roberto Fricantoni Nobel, proprio la parola ci sta lì, mi vedo già i titoli. Per la musica, tra l'altro. Per la musica, certo. Non c'è la categoria. No, sembra di no. No, non esiste un Nobel per la musica. C'è un Nobel per l'economia. Ecco, io non c'entro granché. Sì. Non è mai... No, non sono molto economo. Come stai messo? No, non stai messo molto. Per la chimica. Per la chimica, ecco, io per la chimica veramente non ho fatto nulla. Ecco, lo devo... Sicuro non hai mai giocato il piccolo chimico da piccolo qualcosa? No, non ho fatto. Va bene, ce n'è altri comunque, tranquillo. C'è il Nobel per la fisica. Ecco, qui sono proprio... Fortuna che non è il Nobel per il fisico, perché sennò quello non lo prendevi. Se fossimo in trasmissione ti direi risata obbligatoria. No. Fisica hai fatto... No, non hai fatto niente. Fisica ho fatto niente. Medicina men che meno. Senti, medicina forse niente. Forse letteratura, no? Medicina direi di soprassedere. Medicina niente? Forse... Per la pace. Se non passa la musica direi per la pace. Insomma, con qua hai mai fatto qualche concerto per... Ma sì, certo. Qualcuno sicuramente. Se ci ripenso. Però quei tafferugli negli anni 70 vale con gli Schianto, secondo me non te la passano. No. Ah, pensavo valesse di più. Le risse ai concerti degli Schiantos, no. Secondo me si può fare letteratura. L'unica è chiedere letteratura. Beh, io ho scritto qualche libro adesso, così. Non c'è gusto in Italia. Scusate l'immodestia, sì. Vademecum per giovani artisti, badilate di cultura, stagioni del rock demenziale. Ragazzi, forse... allora lo facciamo per la letteratura? Tutti d'accordo? Ma vedo le ragazze della redazione non troppo d'accordo. Musica non c'è. Possiamo chiediamo? Per la pace. Dai, o chiediamo? No, chiediamo di fare quello per la musica. Va bene, o dai. Per la pace. Ci ragioniamo su. Dai, sì. Ci ragioniamo domani. Vai. Domani comunque, scriviamo. Sicuro, Comunque... Fricantoni per il Nobel. Poi si divide. Ma certo, dividiamo come sempre. E beh, che c'è? Just Stone, dei giovanotti, Time is on my side, dei ragazzini, ai tempi di Time is on my side. 8 e 45 minuti primi, la diretta di Pane, Burro e Rock and Roll, le ultime cartucce da sparare. Vedo con piacere i primi messaggi a favore del Nobel Africantoni via SMS, ma dovevo assolutamente fare dei saluti al patentato 144, Cristiano, che mi scrive via mail, che gridando arridateci il diventa verde, ci lavoreremo. A Enrico, che mi scrive una lunghissima mail, del quale lo ringrazio, anche lui è uno dei tantissimi che chiede come potrò fare ad avere la patente. Ragazzi, prima o poi arriveremo noi da voi per distribuirvela col test attitudinale. Intanto vi ricordo, come sempre, questo sabato all'Alcatraz di Milano, a inizio serata, quindi venite, se siete interessati alla patente, venite presto, perché dopo inizia la cacciara e è difficile star dietro al tutto. Sarà un delirio a redazione, lo sapete? Cioè, peggio di domenica sarà, ecco, va bene. Noi ci mettiamo di buzzo buono. A proposito di patentati, vado a salutare anche il 147. Mi fa impazzire questa cosa che vi firmate col numero della patente. Andrea 999. Lui è l'amico del boicottaggio delle altre radio, si proponeva qualche giorno fa. Ci confessa: ieri sera ho beccato una collega della mia ragazza che ascolta Radio Italia nella fascia oraria di Pane, Burro e Rock and Roll. È dura, ma non ci spaventiamo, scrive Andrea. Tra l'altro questa mattina ho commentato con Andrea a telefono e stavamo tentando di inventarci qualche missione per i patentati. Per esempio Andrea potrebbe, secondo me, in una guerra vera, in una guerra vera di ascolti, noi dovremmo anche studiare il nemico, no? Cioè, bisogna vedere che mosse fanno gli altri per poter poi vincere nella gara d'ascolti. Quindi Andrea potrebbe aggiudicarsi la missione prima linea. Però non puoi più ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll, devi ascoltare le altre radio e farci sapere che cosa fanno, così poi li copiamo, se c'è qualcosa da copiare. Altrimenti continuiamo a rosolarci nel nostro brodo e tiriamo dritti, come solo noi sappiamo fare. 335-100-7777 oppure ariel@radiorockfm.com. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing. Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating. Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing. Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the world can see that you were meant for me. You're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating. Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing. Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Amici ed amiche, ascoltatori e ascoltatrici, questo è l'occhio sul mondo, l'orecchio sul villaggio globale di Panebur Rock and Roll. Le è piaciuta l'introduzione? Ma guardi, era fenomenale. Ha apprezzato la cornice? Ho apprezzato tantissimo, come apprezzo il duro lavoro della nostra redazione. Un applauso. Isacco Rizzi, Spadino e tutti gli altri, le amiche Giovanna, sì. Carla, Francesca, Rossana, Francesca, Isabella. Grazie Rossana, ciao, grazie Isabella mille. Grazie a tutti. Dicevo, le notizie che tutti gli altri scartano, perché gettarle via quando le possiamo utilizzare noi? Ma è forse per raschiare il fondo del barile? Ovviamente sì. Però quest'oggi è una notizia molto... Speravo in un no, invece sì. Ma lei è troppo onesto, DJ Ariele. Quest'oggi parliamo di amore in chat. Se ne parla tanto. Amore in chat. Sì, mia nonna direbbe... che vordì? Lo direbbe in romanesco sua nonna. Sì, che era bolognese, ma in questo caso avrebbe fatto un'eccezione. Che vuol dire? Vuol dire che in questo folle mondo oggi ci si innamora scrivendosi delle fredde lettere al computer. In chat. Vado col titolo della notizia. Sì. Si innamorano in chat, scoprono di essere già sposati. Colpo di scena. Capita spesso di sentir parlare di persone che, conosciutesi tramite web, la ragnatela internazionale, quando si incontrano nella realtà scoprono poi di provare una forte attrazione, per esempio si innamorano e poi magari decidono addirittura di sposarsi. È decisamente più improbabile quanto invece è accaduto a due bosniaci, Sana Klarić alias Sweetie, questo era il nome che usava, Dolcettina, e Adnan alias Prince of Joy, il principe della gioia. Esatto, puntava alto il ragazzo. Sì, molto. I due residenti a Zenica, città della Bosnia centrale, si incontrarono per caso in una delle tantissime chat presenti sul web e dopo i primi scambi di parole hanno scoperto di avere delle forti affinità. È così che tra loro è nata un'amicizia, diciamo, un po' speciale. Per esempio sappiamo che passavano intere notti a parlare dei rispettivi matrimoni, che entrambi definivano noiosi e oramai del tutto fallimentari. Dopo mesi di complicità virtuale, i due hanno finalmente deciso di incontrarsi. Aia, colpo di scena, perché la magia finisce però pochi secondi dopo che i loro occhi si sono incontrati. Sana, e cioè Sweetie, sì, esatto, e Adnan, Prince of Joyce, hanno infatti scoperto di essere moglie e marito. Dopo aver affrontato lo shock e la delusione, i due si sono scagliati uno contro l'altra, accusandosi reciprocamente di infedeltà e attualmente stanno per divorziare. Ma che peccato, brutto, ma scusa. Non dovevano far così. Ma infatti, ma ragazzi, scusate, ripensateci. Si erano rinnamorati, fondamentalmente. Ma infatti, valutate l'aspetto buono della questione e tornate insieme. Era una testimonianza che erano anime gemelle, comunque. Esatto, sappiate perdonarvi, il perdono. Me lo lasci dire, lo DJ dica. Ariel, da uomo di lo esperienza, dica. Colpo di scena, no, io che sono già anziano, sì, posso, e che dunque ho esperienza, sì, di vita, posso dirvi che il perdono, sì, è alla base di un buon matrimonio. I grandi messaggi di Panebur Rock and Roll e l'appello che lanciamo da qui, Sweetie, Prince of Joy, ripensateci. Perdonatevi e tornate insieme. Certo che con due soprannomi così, ma dove volevano andare? Hanno puntato troppo alto i ragazzi, troppo. Sono pazzi, sono completamente pazzi, non gli U2, ma i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll. Su Mysterious Way degli U2 andiamo a terminare la puntata di quest'oggi. Questa è la fine, ragazzi. Dicevo, completamente pazzi. Un commento a caldo alla news che abbiamo appena letto sull'amore in chat. Si scrive DK. Sul web anch'io ho conosciuto una donna, mi ha parlato, si è spogliata, poi però mi sono scomparsi i soldi della carta di credito. Ma era amore? No, di che? Credo proprio di no. Andiamo alla frutta, ragazzi! Sigla! Ma guarda te! Tutti autori del programma, dai, così aiutate Isacco, che gnafa più neanche lui. Termina così. Pane, burro e rock and roll. La tua colazione torna domani. La tua colazione roll. Tracu, tracu, tracu, tra. Pane, burro e rock and roll. Un po' di appuntamenti per il weekend? Ma sì che ve li do. Aspettate un attimo. It may be good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Yo, yo. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock. Per farla breve, mi trovate domani sera, venerdì, al Charlotte di Colle Salvetti in provincia di Livorno con il mio DJ set, e sabato sera alla festa dei 17 anni di Rock FM, dove ci sarà anche il capo Marco Garavelli, the boss. No, i termini moderiamoli, no, perché se vuoi, no, vuoi il re? No, l'imperatore. Sono già stato re una volta in una di queste in uno feste spot, esatto, in uno spot. Adesso sei Jerry Garavelli. Sì. Segnalo, ancora per pochi giorni. Segnalo che un patentato, lo stesso tra l'altro che ci segnalava le patenti fasulle che sì, sono su internet, dice che se non gli facciamo scaricare lo spot di Jerry Garavelli... Ce lo registra? Sì. È come ai vecchi tempi, no? Non lo sai, ormai sti ragazzi moderni tutta la tecnologia. Non lo registrano più. Invece guarda qui che questo messaggio mi fa venire la pelle d'oca. Questo è cattivo, da Genova. Alla quinta volta che i miei colleghi hanno cambiato stazione sulla mia radio, ho piantato un chiodo nel cursore. O Rock FM o morte. Inizia a diventare preoccupante. Colpa tua, li tratti male, poi vedi no, cosa io non succede, li vedi? Non li trattavo, questi sono i risultati. E invece senti, che orgoglio, questo messaggio fa venire la pelle d'oca. Ero ventenne al concerto per Demetrio Stratos all'Arena di Milano. Grazie, mi fate sentire come a quei tempi là. Paolo. Ah, giusto. Bello, buono. Bello, grazie bello, Paolo. Quello che sono soddisfazioni. Vi lascio con Marco Garavelli fino al mezzodì. Aspetta, lo rifaccio. Fino al mezzodì, 180 minuti. Ci provo. Volevi dire questo. Vi lascio con Marco Garavelli fino al mezzodì, 180 minuti. Ciao.